Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, mentre si fanno insistenti le voci, ma ripeto, sono solo voci, di possibili dimissioni della governatrice del Lazio, Renata Polverini, alla luce di altre cose che stanno emergendo. Oggi c'è anche testimonianza resa ai PM di Fiorito, un tema che non abbiamo trattato perché, chiamandosi Focus Economia, lì di economia ce n'era poco, meglio, l'economia era tutta per i consiglieri, principalmente del PDL, ma non solo. Nuovi elementi, capi d'accusa, però oggi ci occuperemo di due notizie. Una, devo dire, è più che positiva, ossia l'Europa da un lato probabilmente non darà tutti i soldi che le regioni italiane hanno chiesto per quella che fu l'emergenza neve, però arriveranno i soldi per il terremoto. Di questo parleremo più avanti. La Commissione europea infatti ha proposto la cifra record di 670 milioni di euro per i due gravi terremoti che hanno colpito lo scorso maggio, ricorderete. Ormai siamo quasi a 6 mesi, e anche a giugno l'Emilia Romagna, e in misura un po' minore sia il Veneto che la Lombardia. Lo ha annunciato appunto il commissario europeo alla politica regionale Hannes Hahn, però invece sembra, ma anche qui non c'è certezza, che vi siano molti molti dubbi, per essere buoni, sulle richieste avanzate per l'emergenza neve da moltissime regioni italiane. Il problema è che, diciamola tutta, visto che è un po' di giorni che parliamo delle regioni, hanno chiesto soldi praticamente la Regione Marche, l'Emilia Romagna, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Toscana, la Puglia, la Basilicata e anche la Calabria, con richieste molto diverse per l'emergenza neve. Però attenzione, e Hannes Hahn ha lasciato poche speranze nell'annunciare i soldi per l'Emilia Romagna. Ha detto nel frattempo: stiamo per esaminare anche quella situazione, ma come si suol dire, la neve poi si scioglie. Il problema è che sono arrivate richieste. Le Marche hanno chiesto quasi 1 miliardo di danni stimati, l'Emilia Romagna 470 milioni. Ci riferiamo all'emergenza neve, quindi quella di febbraio-marzo. Il Molise ha chiesto 164 milioni, il Lazio 270 milioni, l'Abruzzo 240, la Toscana 34, la Puglia 43, la Basilicata 92 e la Calabria 17. Inserire troppe richieste rischiava, lo si diceva già da tempo, di far diventare il dossier come irricevibile, e purtroppo sembra che si muova in questa direzione. Ci occuperemo però anche dell'annunciato accordo tra le Ferrovie Nord di Milano, che è un accordo pilota perché va a aumentare la produttività, da un lato, e dall'altro ne parleremo con l'amministratore delegato, che arriverà, propone, se abbiamo ben capito, anche di dividere gli utili con i dipendenti, le ex Ferrovie Nord, con la fusione con la parte regionale dell'FS, si chiama adesso 3 Nord. E poi alcune notizie in apertura anche sulla crisi che non c'è per tutti. Questa volta non è solo la classe politica, sono anche i manager, i top manager dei grandi gruppi italiani, a non sentire la crisi, come racconta molto bene oggi sul Sole 24 Ore Gianni Dragoni, nonostante l'andamento dei titoli e delle aziende da loro gestite non sempre giustifichi l'aumento complessivo dei bonus o dello stipendio. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Invariata Milano, positiva Parigi di uno 0,40%, Francoforte mezzo punto percentuale, Londra più 0,37%, l'America più 0,16%, euro su dollaro a 1,36. Benelux Ottica più 2,70%, Fiat più 2,40%, Ansaldo più 1,70%, Snam più 1,20%, Autogrill più 1% come Enel, Terna più 0,80%. Male invece Monte dei Paschi, di nuovo deboli oggi le banche, meno 3,5%, Mediobanca meno 2,40%, Ubibanca meno 2,20%, Banco Popolare meno 2% come la Popolare di Milano, ancora Mediaset perde il 3,40% ed Estima Microelectronics il 2,40%. Lo spread è stabile, italiano a 340 punti, quello spagnolo a 420 punti, è un livello non, ripeto, accettabile, però diciamo, sotto i 400 si respira. Per stare tranquilli bisognerebbe andare ampiamente sotto i 300 punti. In Germania per la prima volta dal 20 giugno sono tornati ad essere positivi i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi, appunto a due anni, ha collocato tutti e 5 miliardi di titoli emessi, il rendimento è allo 0,06% contro lo 0% precedente. Il mondo delle banche, allora, qui c'è un tema molto delicato, perché da un lato aumentano le sofferenze bancarie, in aumento a 114 miliardi a fine luglio, e quanto emerge dal rapporto dell'ABI è un miliardo in più, le sofferenze rispetto agli impieghi sono salite così al 5,7%, le sofferenze sono quegli impieghi, quelli poi prestiti che diventano difficilmente esigibili, e appunto al 5,7% contro il 5% del luglio 2011. In lieve comunque recupero ad agosto la raccolta bancaria dalla clientela, più 0,26% a 1.721 miliardi. I prestiti bancari al settore privato hanno invece segnato una flessione anche ad agosto, meno 0,23% a 1.936 miliardi di euro. Ma come hanno raccontato i nostri GR, c'è un problema anche negli occupati del mondo bancario. Sono 20.000, secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, sarebbero 20.000 gli esuberi nel mondo bancario. Praticamente questa condizione di lavoro del sistema bancario poi sarà esaminata mercoledì 19. È stata esaminata per quel 19 dal comitato esecutivo dell'ABI, ma da quello che è trapelato vi sarebbero circa 20.000 esuberi, di cui una cifra consistente, addirittura si è parlato di 8.000 esuberi nel solo monte dei Paschi di Siena. Sì, ha ragione un ascoltatore che dice: ma allora se arrivano i soldi europei leveranno i soldi messi sulla benzina per il terremoto? Non lo so, sarebbe interessante. Il problema in questo paese non è mettere i soldi sulla benzina, cioè chiedere solidarietà nazionale. Ecco, come sappiamo poi questi non vengono mai tolti. Paghiamo ancora la guerra d'Abissinia, il terremoto del Belice, la crisi di Suez e quant'altro, il terremoto di Irpinia. La vicenda Fiat, Volkswagen tramite il suo portavoce ha detto: non è un segreto il fatto che riteniamo Alfa Romeo un marchio interessante, ma abbiamo già abbastanza da fare con 12 marchi. Nel frattempo Sergio Marchionne è arrivato a Torino dagli Stati Uniti con suo aereo privato. Marchionne lavorerà al nuovo piano di investimenti per l'Italia e ha un appuntamento sabato appunto con il presidente del Consiglio Mario Monti, che incontrerà assieme a John Elkann. Vi saranno anche i ministri Elsa Fornero e Corrado Passera. E il leader del PD Bersani dice: io a Marchionne direi un paio di cose molto semplici. Fiat riconfermi i suoi impegni in Italia, un patto per sviluppare la ricerca di prodotti nuovi, perché nel mondo vediamo che le macchine si fanno dove si fa ricerca. E ancora su questo io devo dire ho molto apprezzato oggi Mucchetti sul Corriere della Sera. Perché? Perché c'è un punto, a mio avviso, difficilmente equivocabile. Un manager fa quello che vuole, decide, stabilisce, però quando Marchionne continua a dire che lui i modelli non li ha fatti in questi anni perché il mercato europeo è asfittico, perché il mercato europeo non tira, ci sono due punti. Uno è quello che scrive oggi anche Mucchetti, cioè: ma allora perché gli altri, la Volkswagen e altre marche, continuano a sfondare modelli? Se non mica tutti impazzite le altre case automobilistiche che invece rinnovano i modelli anche per il mercato europeo. E in secondo luogo è ovvio che se tu non esci con i modelli e il mercato langue, o tu ti prepari per tempo e allora ci dovrebbe far sapere quali modelli ha intenzione di far uscire nei prossimi anni, perché se no continuerai a ridurre la tua quota di mercato anche quando il mercato poi ripartirà. Veniamo alla vicenda del CO, dove il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti ha definito positivo l'incontro con i rappresentanti della multinazionale svizzera Glencore. Glencore si è riservata di valutare nei prossimi giorni l'insieme delle informazioni raccolte. Dall'Alcoa di Porto Vesme ci spostiamo invece all'Ilva di Taranto, dove secondo il presidente dei Verdi Angelo Bonelli per i tumori del fegato e dei polmoni in provincia di Taranto nel 2003-2008 c'è stato un più 24% e per i linfomi un più 38%. I dati sulla mortalità del sito dell'Ilva di Taranto del progetto Sentieri sono provvisori, ha detto però il ministro Renato Balduzzi, e saranno completati nelle prossime settimane. E Balduzzi, perché c'era un attacco polemico dei Verdi che dicevano i dati che avevamo a disposizione il ministro non li ha voluti pubblicare, Balduzzi ha detto entro il 12 ottobre arriveranno anche i nuovi dati sul monitoraggio biologico degli allevatori e inquinamento dei mitili. E poi il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che ha detto in 2 anni la diossina è stata ridotta centinaia di volte grazie agli interventi tecnologici fatti appunto in questi ultimi 2 anni. Chiudiamo con l'Italia per i controlli effettuati oggi dalla Guardia di Finanza in provincia di Varese. Un commerciante su 2 non emette lo scontrino fiscale. Irregolarità in 58 esercizi commerciali sui 113 controllati. Allora, adesso iniziamo con la rubrica "Ma cos'è questa crisi?". Oggi c'è di tutto. Ma arriveremo anche alla crisi che non esiste per i top manager italiani. Non c'è solo infatti la casta della politica o degli amministratori delle regioni, con un'unica piccola differenza: quando il top manager è di un'azienda privata, saranno poi gli azionisti a dover confessare, sconfessare, rafforzare la politica retributiva di questo manager. Altra cosa è quando si lavora per conto dello Stato, addirittura perché si è eletti dai cittadini italiani, lì il discorso non è decidono gli azionisti, diciamo, dei consigli regionali piuttosto che delle partecipate dallo Stato, siamo noi cittadini. Cosa diversa nel soggetto privato, in cui se agli azionisti va bene non c'è nulla da obiettare, sono loro che decidono o dovrebbero decidere le politiche retributive. In realtà è un po' diverso, perché poi dentro i consigli di amministrazione succede un po' di tutto ogni tanto. Ma andiamo con ordine. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo dalla crisi che gli altri non vedono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, il Censis oggi, nell'indagine con la Coldiretti, scopre, tra virgolette, che un italiano su 3 abita con la mamma, il 52% vicino ai parenti, ma soprattutto che gli italiani riscoprono i fornelli, che si torna ad andare al lavoro con la schiscetta, con la gavetta, ormai che il 30% clicca notizie sul cibo, la preparazione dei pasti è tornata assolutamente in voga, il 15% si porta ormai la gavetta o schiscetta, chiamatela come volete, in ufficio per risparmiare, ma anche per essere sicuro della qualità del pasto, mentre l'85% fa la spesa alimentare sotto casa. E mentre appunto il Censis fotografa famiglie italiane che prendono atto in maniera molto molto concreta della difficoltà e di una crisi che vedrà quest'anno i consumi calare come mai è successo dal 46 in poi, la Giunta per il Regolamento della Camera ha approvato finalmente le nuove norme interne per la trasparenza. Sapete che ieri è successo di tutto, perché c'era il progetto di legge che i bilanci dei gruppi parlamentari andassero controllati da una società di revisione esterna. Poi non è passata, perché è passato invece una mozione a doppia firma PDL e PD in cui si diceva no, deve essere un organo di vigilanza interna. Ora, col massimo rispetto, però chiedere a qualcuno interno al Parlamento di controllare sulle spese dei gruppi parlamentari è chiaramente un azzardo, perché non mi sembra che in questi anni la politica abbia dato una dimostrazione di sapersi autogestire, autocontrollare. Adesso di nuovo la Giunta per il Regolamento della Camera ha approvato le nuove norme interne, per cui vi sarà una società esterna selezionata tramite gara dall'ufficio di presidenza della Camera, controllerà i bilanci di tutti i gruppi parlamentari. Adesso però vi faccio sentire che cosa invece, mentre noi stiamo affrontando problemi un po' diversi, che cosa è venuto in mente a il candidato alla presidenza della Sicilia, regione non esattamente amministrata come un cantone svizzero, e mi riferisco a Gianfranco Micci, che ha ribadito quanto già aveva annunciato, che è un errore avere un aeroporto a Palermo intitolato a Falcone e a Borsellino, perché questo avrebbe un effetto negativo sul marketing turistico della regione Sicilia. Continuo a essere convinto che intitolare l'aeroporto a Falcone e Borsellino comunque significa, nel caso in cui non mi fossi ricordato della mafia, me lo ricordavo subito. Ecco, continuo a essere convinto. Io sono uno che ha lavorato nel marketing tutta la vita. Dal punto di vista di marketing eviterei di chiamarlo così. Visto che ha lavorato a lungo nel marketing, Michiché saprà che anche se veramente non si vuole dare un'immagine della Sicilia come legata alla mafia, più che levare il nome di Falcone e Borsellino dall'aeroporto, forse sarebbe il caso di combattere la mafia. Che dici, Michiché? No, leviamo la mafia, combattiamo la mafia e vedrà che nessuno arrivando in Sicilia penserà alla mafia. Oppure si potrebbe anche proporre di non parlare direttamente più della mafia. A questo punto, come marketing del territorio, andrebbe meglio. Farei notare anche, amici, che forse la presenza capillare della mafia in Sicilia è quello che non ha permesso lo sviluppo del turismo in Sicilia, non il nome Falcone e Borsellino sull'aeroporto. Ma sapete com'è, oggi è giornata di impazzimento. Datemi un tango della Maiella, perché adesso raccontiamo anche le spese di Renata Polverini. Eh sì, perché bene la Polverini nel tagliare 20 milioni di spese, un po' in ritardo, si era mossa la magistratura, però sta uscendo un po' di tutto. Allora, Edmondo Zanini, il fotografo della Presidente, assunto, 230 assunzioni ha fatto la Polverini da quando è governatrice, costa alla Regione 75.000 euro l'anno, anche perché è entrato nello staff come responsabile comunicazione ai grandi eventi. A ottobre però 2011 Gabriella Peluso viene chiamata a guidare la verifica dell'attuazione delle politiche regionali del programma di governo, contratto da dirigente per 122.000 euro l'anno. La Peluso, ma è solo una coincidenza per carità, è compagna di Salvatore Ronghi, potentissimo segretario generale della regione, che guadagna a sua volta 190.000 euro lordi l'anno. Uno del gruppo ex UGL, di cui era il sindacato da cui viene la Polverini, fanno parte anche il capo di gabinetto Giovanni Zoroddu e l'assessore bilancio Stefano Cetica. E poi c'è il fatto dei vitalizi. Allora, questa è una cosa allucinante. Io capisco che adesso la Polverini si arrabbia, ma dovrebbe anche spiegarci perché i vitalizi agli assessori esterni non c'erano. Adesso sono stati introdotti e tutti i vitalizi sono transitati nelle mani di Cetica, quindi su indicazione della Polverini. Gli assessori sono tutti esterni e quindi costeranno ai contribuenti 1 milione lordo l'anno per un trentennio. Praticamente cosa succede? Frutto della mancata presentazione della lista PDL alle elezioni 2010, chi doveva entrare in consiglio regionale è stato risarcito in qualche modo, prima entrando in giunta e poi col vitalizio. Basta una legislatura per portarsi a casa 3.000 euro al mese. Ma vi sembra normale questo, che uno fa una legislatura, no, in giunta e porta a casa 3.000 euro al mese per tutta la vita? Tutta la giunta, pensione a parte, costa 5 milioni di euro l'anno. Se gli assessori fossero interni, cioè eletti dentro il consiglio regionale, cioè parte dei consiglieri regionali, si risparmierebbero 1 milione di euro. E poi ci sono 270 contratti stipulati tra consulenti e collaboratori a tempo determinato, dirigenti, portaborse, segretari, addetti stampa. Ogni assessore ha diritto a uno staff di 10 persone, ma è la Regione Lazio, non è la Casa Bianca. Però siccome c'è lo spacchettamento di contratti full time, si arriva a 189 persone. Gabriella Sentinelli, assessore all'istruzione, ha 17 persone nel suo staff. E le società regionali si sono allargate a dismisura. Lazio Service ha assunto 200 dipendenti, toccando quota 1300 dipendenti. Allora io dico, ma è possibile aver introdotto anche il vitalizio per gli assessori esterni, cioè quelli che non facevano parte del consiglio regionale? È possibile avere 3.000 euro per portarsi a casa il vitalizio, la pensione a vita? 3.000 euro? Dai, un applauso anche oggi alle decisioni prese in questi mesi, anni, della giunta regionale del Lazio. Sì, giustamente scrive un ascoltatore, ma allora secondo Michiche non bisognerebbe nemmeno più fare fiction sulla mafia per evitare un cattivo marketing siciliano. Guardate che c'è chi l'ha detta questa cosa, adesso vado a riprenderla, che disse insomma tutta questa fiction sulla mafia danneggia il buon nome della Sicilia, che ripeto, torniamo sempre all'antico detto, alla fine meglio non parlare, la mafia non esiste, così non diamo una cattiva impressione. Questo non è neanche nascondere i problemi sotto il tappeto, è sotterrarli, magari in un pilastro di cemento. Momenti e futuro incerto. E non ci posso credere che si arrivi a dire che Falcone e Borsellino rovinano il marketing della Sicilia. No, no, la mafia, eh. Ma ce l'abbiamo Johnny Stecchino? Ma sì, dai. Adesso lo riprendiamo Johnny Stecchino. Che sembra uscito da lì. Beh, vediamo però anche per quali altre categorie la crisi non esista. Onore e merito a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore per aver scoperto che nel 2011 la Borsa di Milano ha perso il 25%, e questo lo sapevamo anche noi. Ma i manager delle società quotate hanno visto la loro retribuzione media passare da 3 milioni a 3 milioni e mezzo. Nulla di irregolare, sono società spesso private, il consiglio di amministrazione delibera, gli azionisti approvano. Si sta solo facendo notare che da un lato perdono alcuni titoli e dall'altro guadagnano alcuni manager. La classifica vede sempre al numero uno Marco Tronchetti Provera, presidente del ministero delegato di Pirelli, con 23 milioni di euro, grazie anche a bonus relativi a vari esercizi. Il titolo Pirelli nel 2011 ha fatto un più 8%, seguono Cesare Geronzi, però lì c'è anche la buona uscita, in tutto 17 milioni e mezzo, un peccato che le generali abbiano perso il 20%. Nel 2011... terzo posto per Fausto Marchionni, che però ha lasciato Fondiere Assai e ha intascato, diciamo, 12 milioni di euro, nonostante il gruppo fosse poi in bancarotta, 1 miliardo di debiti venduto a Unipo, io non so. Il titolo Fonsai ha perso l'84%, ora con tutto il rispetto per Fausto Marchionni, ma come fa uno a incassare così tanto? È ovvio che c'è un contratto tutto legale con un titolo che perde l'80%. Forse perché i proprietari di allora, Giulia e Ionella Rigresti, nonostante il titolo abbia perso l'80% e la compagnia assicurativa fosse schiacciata da 1 miliardo di debiti, si sono dati rispettivamente 3 milioni e 2 milioni e 200 mila euro. Sonata di Bento. Sergio Marchionne, 5 milioni di euro, anche qui i risultati, forse su Chrysler, sicuramente non su Fiat. John Elkan, 3 milioni. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Dunque, ti chiedo ancora un minuto di pazienza e poi torniamo su questo tema, non per fare demagogia, ma per dire, insomma, ci dovrebbe essere un legame tra andamento del gruppo gestito e titolo in borsa e il guadagno dei top manager. Faccio però notare una cosa, visto che in questi giorni abbiamo parlato anche di Arnaud, di François Pinault e Bernard Arnaud, che ha chiesto cittadinanza belga con 4 miliardi già depositati. Bill Gates in America e Warren Buffett, il guru della finanza, hanno convinto altri 11 miliardari a cedere metà della loro fortuna. Si chiama Giving Pledge, è un'iniziativa lanciata nel 2010 per aumentare la visibilità della filantropia, e praticamente nel 2011 le donazioni di beneficenza sono salite del 4%, vi partecipa anche il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Allora Gianni Dragoni, al di là del fatto che i manager, i top manager di società private, se va bene agli azionisti, va bene al consiglio di amministrazione, possono darsi lo stipendio che vogliono, cioè questo non è... però che cosa emerge dalla tua analisi? Tu hai correlato, diciamo, stipendi dei top manager delle società quotate e andamento delle società stesse. Beh, intanto gli azionisti, in realtà quelli che decidono queste retribuzioni, che poi sono riferite, questa media di 3,5 milioni a testa è riferita ai primi 100 più pagati, e significa un aumento di circa il 16% rispetto all'anno precedente. E gli azionisti sono solo i principali, gli azionisti di comando, che non sempre coincidono neanche con gli azionisti di maggioranza, perché la gran parte degli azionisti dei piccoli, che sono anche, possono essere anche centinaia di migliaia, come nel caso delle grandi società, come le grandi banche, come la Telecom, come l'Eni, l'Enel, eccetera, non contano nulla, vengono chiamati per questo anche palco buoi. Quindi in realtà la decisione in realtà è presa da pochi. Poi in alcuni casi chi decide queste retribuzioni, ad esempio il gruppo Ligresti, come la, quindi abbiamo parlato di Fondiaria Assai, Marchionni, che ha questa super liquidazione, lo ricordo, 11,2 milioni di liquidazione aggiuntiva. Marchionni, no, perché sono tra Marchionne e Marchionni, giusto. Facciamo Marchionni, Fausto Marchionni, 11,2 milioni gli sono stati dati, si è dimesso a gennaio del 2011 di fronte ai conti rovinosi, 11,2 milioni di liquidazione aggiuntivi al TFR che gli spetta, quindi in questo caso è stata anche una decisione, se vogliamo, discrezionale, neanche prevista da un contratto, ma decisa dalla famiglia Ligresti per premiare un manager che è stato fedele alla famiglia per 40 anni e più, ma che almeno nei risultati degli ultimi 2-3 anni ha visto una caduta del titolo, tu hai ricordato Sebastiano, il meno 86% di Fondiaria Assai nel 2011, anche gli anni precedenti era stata una Caporetto, quindi c'è molto da rivedere nei meccanismi di... Ecco, quelli che hanno studiato li chiamano meccanismi di governance. Allora, il punto è molto semplice, se gli azionisti sono d'accordo non c'è nessun problema, nel senso che un privato con i suoi azionisti si mette... La sensazione però è che nel caso, prendiamo il caso più facile, che è quello Fondiaria Assai, che tutto si sia deciso tra gli azionisti di riferimento, ossia famiglia Ligresti, che si è data, che ha dato anche a se stessa milioni e milioni di bonus, nonostante una, ripeto, un gruppo schiacciato, distrutto da un miliardo, distrutto come gestione finanziaria, non come gruppo, da un miliardo di debiti e con un titolo precipitato all'80%. E allora lì il meccanismo, cioè non è che il piccolo azionista di Fondiaria ha avuto modo di decidere se Marchionni dovesse avere 11 milioni e mezzo per lasciare in quel modo poi la società, giusto? Giusto, e neanche il piccolo azionista delle Generali, per dire un'altra società che ha visto crollare le quotazioni in borsa nel 2011, ma anche negli anni precedenti, ha potuto dire una parola sulla liquidazione data al presidente Geronzi, che meno di un anno, meno poche settimane mancavano dopo la nomina, siccome c'è stata una lite tra diciamo il gruppo di comando, che poi non è neanche chiaro bene chi comanda alle Generali come a Mediobanca, è stato estromesso e quindi ha preteso che gli pagassero i 2 anni mancanti, e in più è stata aggiunta un'indennità, per cui ha ricevuto 16.700.000 di indennità e 17.500.000. La cosa curiosa è che Geronzi è stato, diciamo, estromesso, il potente, potentissimo Geronzi, che è sempre molto potente, per una lite con gli altri azionisti e con il gruppo di Mediobanca di Alberto Nagel, perché, diciamo, era accusato di insidiare la leadership dell'amministratore delegato per il Sinotto. Un anno dopo, cioè nell'aprile di quest'anno, è caduto anche per il Sinotto, perché era accusato dai grandi azionisti privati di non portare abbastanza valore, visti i risultati rovinosi delle Generali. Quindi poi queste battaglie, c'è chi oggi scalza un altro e poi dopo cade, e vedremo l'anno prossimo quando saranno pubblicati i sì danni. Ma vorrei tracciare una linea su questo, ripeto, se c'è un accordo, se va bene a tutti quelli che hanno, se si vota questa cosa, se il consiglio di amministrazione non si dà un aumento collettivo, non si autodà un aumento collettivo in tutti i suoi membri, per cui il presidente si prende un bonus, l'amministratore delegato si prende un bonus, i consiglieri aumentano i gettoni, quindi tutti sono d'accordo ovviamente, cane non morde cane, non mangia cane. Se invece questo passa attraverso una governance trasparente per cui si vota in assemblea, sono d'accordo nelle remunerazioni, perfetto, non c'è nessun problema. Bisogna però che sia così, altrimenti è giusto criticare la politica e criticare la gestione perché quelli sono soldi pubblici, ma attenzione, non c'è un principio granché etico nell'avere un titolo che perde in borsa, un'azienda che aumenta i debiti e gli amministratori sono sempre più pagati. Rino Formica, se non ricordo male, per parlare della loro Partito Socialista Italiano, disse: il convento è povero ma i frati sono grassi. Ecco, non vorremmo che si finisse giri e gira sempre lì. Visto che stiamo parlando di titoli, ringrazio Gianni Dragoni e passo subito alla borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Livia Zancaner, buonasera. Radio Cuore sulle 24 ore. Da quando lunedì sono ripartite le vendite allo scoperto, cioè vendere senza avere in mano il titolo, a mio avviso è una cosa che non ha nessun senso, perché cioè, guadagnare su un crollo non è... Vabbè, non voglio entrare anche a far polemica oggi su questo. Dicevo, da lunedì Milano flette un po' più della media. In realtà poi oggi, nell'ultima mezz'ora, abbiamo visto un certo recupero, tant'è che poi ha chiuso con un più 0,15%, Parigi però ha fatto più 0,50%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,40%. Le banche ancora però sotto pressione, sia Monte dei Paschi meno 3,40% che UbiBanca meno 2,24%. Monte dei Paschi e UbiBanca. Sì, allora bisogna semplicemente ricordare che in due sedute il FTSE MIB ha perso il 3,3%, appunto come dicevi tu, penalizzato dalle banche che sono state appunto colpite secondo gli operatori dai realizzi, soprattutto a causa del ritorno della possibilità di effettuare vendite allo scoperto. MPS e UBI sono le banche peggiori, anche perché sono state inserite nella lista dei titoli meno favoriti di Morgan Stanley, in particolare per il difficile contesto macro italiano che, come noto, appunto sta passando un momento di difficoltà, e per quanto riguarda MPS anche per il processo di ristrutturazione in corso. Tornando alle vendite allo scoperto, ricordiamo che il divieto è entrato in vigore il 23 luglio, data da cui le banche avevano iniziato a rimbalzare, con l'indice FTSE MIB che si è ripreso passando da circa 12.000 punti di fine luglio ai 16.600 circa di venerdì scorso, quindi anche per questo che la Consob ha deciso di togliere il divieto alle vendite allo scoperto e di ripristinarle a partire da lunedì scorso. Allora, Mediaset invece ha abbandonato la gara per la 7, secondo molti analisti questo dovrebbe essere anche positivo, ma il titolo scende oggi. Il titolo continua a scendere, oggi ha perso il 3%, mi realizzi, hanno colpito anche Telecom Italia Media che ha ceduto il 10,8%, ma ricordiamo che arriva da un periodo di forte rimbalzo. Sì, gli operatori hanno giudicato positiva la notizia dell'abbandono da parte di Mediaset per la gara per la 7, considerando che sempre secondo il mercato per acquisire la 7 Mediaset avrebbe dovuto procedere ad un aumento di capitale o allo stop ai dividendi. Ricordiamo, per quanto riguarda l'emittente televisivo, che lunedì prossimo, il 24 settembre, scadono i termini per la presentazione delle offerte per l'emittente, a cui sarebbe interessata anche Sky. Adesso c'è il traffico, poi però continuiamo con la borsa. Una risposta a chi sta commentando ancora le dichiarazioni, a mio avviso deliranti, di Gianfranco Micichè, che l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo danneggerebbe l'immagine della Sicilia, il marketing turistico. Le battute le ho già fatte io. C'è chi dice: beh, allora arrivare in America al JFK, al John Fitzgerald Kennedy Airport, vorrebbe dire ricordare che il presidente è stato ammazzato. E c'è chi propone di intitolare l'aeroporto di Palermo a Ligresti, visto che parlavamo di fondiaria, per come marketing del territorio. No, mi sembra che anche in quel caso l'immagine sarebbe danneggiata, vista la gestione di fondiaria, sai. Al di là della battuta, veramente è una cosa che non si può sentire. Johnny Stecchino, ce l'abbiamo? E dai, che Micichè oggi se lo becca tutto. Il sole, il mare, fighi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna, il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella pezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. Chiusa questa breve parentesi, ma abbiamo ricevuto decine di messaggi sulle dichiarazioni, a mio avviso un boomerang totale di Gianfranco Micichè sull'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che rovinerebbe l'immagine della Sicilia citando due magistrati uccisi per la mafia. Continuo a ritenere che l'immagine della Sicilia per il turismo la rovini la mafia, non i magistrati uccisi per la mafia. E torniamo invece a bomba sul mercato, Livia Zancaner. Allora, citavamo Mediaset, T-Media oggi, perché lunedì 20, così alla 7, lunedì 24 scadono i termini per l'offerta della 7, il titolo? Sì, allora, il titolo oggi è stato vittima dei realizzi dopo i recenti rialzi, ha perso oltre il 10%, appunto come dicevi tu, lunedì verranno sciolte le riserve sulle offerte, in quanto scadono i termini per la presentazione delle offerte non vincolanti. Mediaset appunto si è defilata dalla gara, mentre sarebbe interessata anche Sky. Bisognerà poi vedere quali sono le offerte che arriveranno fino alla fine, che quindi si concretizzeranno. Ancora altri titoli tra quelli maggiori, poi passiamo anche alle SOPAF, che continuano a guadagnare, mentre il gruppo Rizzoli Corriere della Sera, che ha preso oggi un altro 14,5%. Rizzoli prima. Sì, un altro balzo quindi per RCS. Ieri sera ricordiamo che l'azionista Diego Della Valle ha comunicato di aver incrementato la quota dal 5 al 9% circa, ed è diventato così secondo azionista fuori dal patto che vincola il 58% della società, dopo Rotelli che possiede il 16,5%. Secondo gli operatori però il titolo è guidato soprattutto da movimenti speculativi, anche perché ricordiamo che ormai il flottante effettivo è inferiore all'8% circa del capitale, quindi sono comunque movimenti dettati dalla speculazione con flottante, quindi azioni che possono essere scambiate veramente basse come numero. Sì, lo spiegava molto bene ieri Antonella Olivieri. Ormai il numero di azioni scambiabili, cioè il flottante, è talmente basso che basta poco per muovere il prezzo, tant'è che si ipotizzava un intervento della Consob per fissare un prezzo massimo, no? Che sennò con pochissimi movimenti tu determini grandi variazioni di prezzo. Andiamo avanti invece. Fiat oggi in leggero recupero, più 2,56%, ha perso 6% in due sedute. Ansaldo e Pirelli. Sì, allora Ansaldo invece ha guadagnato l'8,6% in sei sedute. Qua sono due i fronti su cui ragiona il mercato: da una parte gli operatori aspettano novità sui progetti in Medio Oriente, dall'altra sulla tanto attesa vendita della società da parte dell'azionista Finmeccanica. Ricordiamo che in un incontro con gli analisti la scorsa settimana è emerso che a breve dovrebbe essere segnata una commessa in Qatar e che la società è in gara per un progetto sulla metropolitana in Arabia Saudita, quindi i riflettori sono sempre accesi sul titolo e si avranno novità nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Pirelli ha beneficiato della buona intonazione del comparto auto, così come Fiat, comparto che ha guadagnato in Europa il 2%, e ha beneficiato anche del buon andamento di Michelin a Parigi. Michelin, che è la concorrente francese di Pirelli, ha infatti confermato i target per il 2012 e ha migliorato le stime di utile operativo per il 2015 da 2,5 a 2,9 miliardi di euro, e quindi anche Pirelli a Piazza Affari ha beneficiato delle buone indicazioni della concorrente francese. Ancora tra i migliori e i peggiori, allora Telecom e Italia Media, appunto, diciamo alla fine meno 10,2%, però e poi TAS meno 8,70%, Bastogi meno 5,11%. Tra chi ha guadagnato invece Segnalo anche Prelios più 8%, Save più 4,95% e poi la Banca Carige con le risparmie più 4,86%. Ancora il rapporto di cambio euro su dollaro è a 1,30,66. Vorrei chiudere con il lusso, perché è vero che Fiat è il secondo miglior titolo, più 2,56%, ma Luxottica che è in assoluto il migliore, quasi a 28 euro di nuova operazione, più 2,60%. Sì, il titolo ha beneficiato delle buone indicazioni arrivate dagli esperti, soprattutto sul mercato dell'ottica globale. Il mercato, infatti, che valeva circa 27,5 miliardi di euro nel 2011, è stimato crescere a 35 miliardi entro il 2017. Visto quindi queste previsioni positive, gli esperti stimano per Luxottica una crescita del fatturato del 10% e dell'utile per azione del 14% nel periodo 2011-2014. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. E allora, dopo esserci occupati delle dichiarazioni, ripeto, deliranti a mio avviso, di Gianfranco Micichelli sull'aeroporto di Palermo, che il cui nome dedicato a Falcone Borsellino creerebbe un danno economico al turismo siciliano perché evocherebbe la mafia, e di nuovo di quanto è emerso e sta emergendo sull'allegra gestione dei soldi e dei contributi ai consigli regionali, al Consiglio regionale del Lazio, ma non solo, ai gruppi politici del Lazio, la gestione stessa fatta dal presidente Polverini, e poi delle retribuzioni dei top manager italiani, spesso, ahimè, come scrive oggi su Sole 24 Ore Gianni Dragoni e come ci ha raccontato, divergenti rispetto all'andamento dei titoli in borsa e aver concluso l'approfondimento di borsa. Adesso ci occupiamo di una vicenda che ha due aspetti, in chiaro scuro. In scuro perché siamo stati quasi sfottuti dal commissario europeo alla politica regionale Hannes Hahn per quello che riguarda le richieste arrivate dalle nostre regioni per per i danni, in alcuni casi anche disastri, provocati dalle pesanti nevicate dell'inverno scorso in varie regioni. Bruxelles non si è ancora pronunciata, ma sembra di capire che sarà un no. Per fortuna invece la commissione ha proposto un contributo da 670 milioni di euro per coprire almeno in parte i danni del terremoto lo scorso 29 maggio. Saranno appunto domani 5 mesi che hanno colpito Emilia Romagna e anche parte di Veneto e Lombardia tramite il fondo di solidarietà europea. Lo ha annunciato lo stesso commissario Hannes Hahn. 349-238-6666 per i vostri sms. Vediamo perché ho detto che il commissario ci ha quasi sfottuto, perché ha detto, per quello che riguarda i soldi chiesti dalle regioni per l'emergenza neve, stiamo per esaminare quella situazione, ma come si suol dire, la neve poi si scioglie. Il problema è che sono arrivate così tante richieste in tempi di vacche magre anche per Bruxelles, che il rischio che diventino irricevibili tutte, cioè che il dossier diventi irricevibile, è altissimo. Perché? Perché le richieste vanno dai 985 milioni della Regione Marche ai 470 dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. L'Umbria ne ha chiesti 360, ma c'è anche il Lazio che ha chiesto 270 milioni, l'Abruzzo 240 milioni, Molise 160 milioni, la Toscana 34 milioni. Ci sono anche la Puglia con 43 milioni, la Basilicata ha chiesto 92 milioni e la Calabria 17 milioni. E chiaramente questo, diciamo, non è stato il miglior modo per presentarsi a Bruxelles, secondo molti osservatori, non secondo noi. Dicevamo invece del contributo da 670 milioni. Siamo in collegamento con Maurizio Marchesini, che è presidente di Confindustria Emilia Romagna. Buonasera. Buonasera. Beh, insomma, è una buona notizia. Chiaro che non basterà a coprire tutto il danno. Il presidente della regione Emilia Romagna Vasco Errani ha detto grazie all'Unione Europea per l'importantissimo contributo. Intanto un aggiornamento, presidente, dalla situazione delle imprese colpite dal terremoto, e certo, però anche un commento sugli certo aiuti europei, prego. Certo. Allora, intanto una precisazione: questi contributi europei, ovviamente graditissimi, però non servono per imprese, ma per edilizia privata, per restauro delle opere d'arte, per le opere pubbliche. Certo. Grandissimi comunque ugualmente. Faccio notare che è la gestione più larga che il Consiglio europeo ha mai fatto per casi di questo genere. E anche una piccola nota per la neve. Vede, noi ci siamo imposti, quando è successa questa cosa terribile, e per dirla con le parole del Presidente Errani, non chiederemo un euro in meno, ma non chiederemo neanche un euro in più. E devo dire che effettivamente questa serietà, nel caso appunto di cui stiamo parlando, ci ha fortemente premiato. E come sta andando la ricostruzione? Guardi, i miei concittadini sono persone tenaci, sono persone di grande volontà, sono ripartiti subito. I finanziamenti, il grosso dei finanziamenti dallo Stato arriveranno all'inizio del 2013. Questo però, ciò non toglie che la ricostruzione è già cominciata. È cominciata con dei finanziamenti ponte, è cominciata con dei finanziamenti diretti delle imprese, però stiamo già di fatto lavorando. Quindi ha fatto bene a chiarire, Presidente, che questi soldi non arriveranno alle imprese, e quindi perché sono destinati, diciamo, alla parte pubblica, no? Chiese, musei, però diciamo, in un calcolo complessivo potranno permettere di stornare alcuni soldi dalla parte pubblica alla parte privata? Correttissimo, assolutamente sì. E inoltre bisogna anche tenere conto dell'effetto benefico sull'economia che farà avere degli altri fondi che andranno per edilizia pubblica, edilizia privata e quant'altro, e quindi metteranno di nuovo in moto l'economia. Quindi in questo senso sono comunque benvenuti, ci mancherebbe. Ecco, una precisazione sui la tempistica. Il commissario europeo ha chiarito che arriveranno entro la fine dell'anno o l'inizio del 2013. Che arriveranno all'Italia, quindi terremo stati in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Adesso c'è un ultimo passaggio, l'ultima parola aspetta infatti l'autorità di bilancio europea, il Parlamento e il Consiglio europeo, che dovranno dare via libera alla necessaria rettifica del bilancio europeo. Però, insomma, bella mi sembra anche la frase del commissario europeo alla politica regionale Hannes Hahn, che ha detto: dobbiamo aiutare questa regione, l'Emilia Romagna, altamente produttiva, a rimettersi in piedi in un periodo in cui non si vede tanta solidarietà in Europa, no? Presidente. Beh, io nel caso dell'Emilia ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che non è solo una questione di solidarietà giusta, doverosa, gradita, ma è anche un buon affare per la nostra comunità, per tutta la comunità, compresa la comunità europea. E voglio ricordare a tutti che questa zona colpita produce poco meno del 2% del PIL nazionale italiano. È una zona fortemente esportatrice, una zona con industrie ad alta tecnologia, voglio ricordare il biomedicale, ma non solo, tante altre industrie. Quindi ripeto che non è solo una questione di solidarietà, è anche doveroso per la ripartenza dell'economia in generale, non solo in senso stretto. In bocca al lupo a tutti i suoi concittadini e corregionali, e poi a tutte le imprese che le rappresenta, in particolar modo quelle chiaramente colpite dal sisma, e speriamo appunto che non vi siano intoppi, ma non dovrebbero esserci, lo dico in maniera molto trasparente. La cosa sembra fatta, l'annuncio del commissario europeo è molto netto. Grazie al presidente della Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini. Parliamo alla luce anche dell'ultimo rapporto CNEL, quello che abbiamo commentato lunedì, in cui emergeva come 40 anni fa l'Italia fosse ai primi posti per produttività e adesso siamo all'ultimo posto tra i maggiori paesi. Parliamo di come si aumenta questa mitica, ma anche molto in qualche modo nebulosa delle volte, produttività. E come dicevamo, il rapporto CNEL ricorda come l'Italia prima per produttività nel decennio 1970-1979, ossia l'output per ora lavorata era cresciuto del 6,5% in Italia, più che in Giappone, in Francia, in Germania. Negli anni 80 si è ridotto al 3,2%, negli anni 90 al 4,3%, al 2,6% l'Italia, e ci avevano superato rispettivamente la Gran Bretagna negli anni 80 e negli anni 90 gli Stati Uniti. Negli anni 2000, con l'ingresso dell'euro, la produttività italiana precipita a un più 0,4% per ora lavorata, la Germania cresce di quasi il 2, la Francia del 2,5, la Spagna dell'1,5. Per parlare di casi concreti, perché molti di voi ci chiedono: ma cos'è questa produttività? Come si riesce a ottenere una produttività senza abbassare i salari in senso stretto e quindi senza poi comprimere i consumi e la domanda interna? Citiamo un caso che è quello dell'accordo raggiunto circa un mese e mezzo fa da Trenord, ossia la divisione regionale lombarda dei Trenitalia e di Ferrovie Nord. Si sono unite in una società di trasporto pubblico locale nata nel 2009. L'azionista di riferimento della regione Lombardia. Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Trenord, Giuseppe Biesut. Buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete siglato un accordo, chiaramente con i sindacati, per tutti i vostri 4.000 dipendenti, in cui l'orario di lavoro sale da 36 a 38 ore settimanali, ma soprattutto la produttività dovrebbe crescere del 20%. Quali sono i dettagli? Beh, guardi, noi pensiamo che la produttività aumenti al minimo del 20%. Noi immaginiamo che possa aumentare anche di più. Perché non è tanto l'aumento a 38 ore settimanali, ma è il numero di ore pregiate che i nostri dipendenti faranno sul posto di lavoro. Vede, questo è un problema fondamentale. Io l'ho sentita prima che lei richiamava lo studio del CNEL, no? Questo studio del CNEL sembra quasi indicare che finché in Italia c'era poca pressione da parte dell'unità del sindacato e quant'altro, si crescesse facilmente dal punto di vista della produttività. Poi all'aumentare della pressione sindacale evidentemente sembra che la produttività sia calata, ed è effettivamente calata, perché poi in un'altra parte dello studio si legge sempre che la concertazione in Germania ha portato a una sorta di stagnazione dei salari e da un aumento di conseguenza della produttività. Io, vede, quando con i sindacati ho proprio messo in piedi un rapporto di natura diversa, ho cominciato a fare in maniera che loro capissero qual era la necessità dell'azienda per raggiungere livelli di produttività maggiori. E devo dire che parlandone, anche con un dialogo piuttosto serrato che è durato tanti mesi, siamo riusciti a raggiungere questo risultato. Perché non è tanto il numero delle ore settimanali, è come si lavorano queste ore settimanali per aumentare i ricavi per unità di prodotto. Questo è un lavoro che va fatto. Io, guardi, sono anche nella condizione di dirle una cosa che credo sia piuttosto interessante. Vorrei arrivare ad aprire un tavolo con i sindacati nel quale cominciamo a discutere di come si ridistribuiscono gli utili, ad aumenti delle unità di ricavo per costo di lavoro per unità di prodotto. Io sono in grado di discutere e di aprire una discussione su come ridistribuiamo gli utili. Credo che questa sia la chiave di volta del ragionamento. Quindi lei dice che è disponibile da oggi ad aprire un tavolo di confronto con i sindacati per ridistribuire gli utili delle Trenord con i dipendenti, chiaramente. Beh, certamente sì, questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Tenga conto che noi siamo nel settore dei servizi, ma nel settore della produzione di beni non è molto diverso. Il 50% dei nostri fattori della produzione sono il costo del lavoro. Se noi non incidiamo su questo, ma dobbiamo inciderci in maniera innovativa, noi dobbiamo fare in maniera che allo stesso livello di stipendio, di salario, si riesca ad avere più ore pregiate per il lavoro. Bisogna produrre di più. La produttività è solamente questo, non è altro che un indice dove al numeratore ci sta il ricavo per unità di prodotto e dove al denominatore ci sta il costo del lavoro per unità di prodotto. Noi dobbiamo mantenere il costo del lavoro per unità di prodotto stabile ed aumentare il ricavo. Ecco, per quello che riguarda invece l'accordo che avete firmato, avete da un lato garantito che non vi saranno esuberi, ma dall'altro avete detto non tocchiamo i livelli retributivi, cioè il vostro dipendente lavora 2 ore in più a settimana e quindi 8 ore in più al mese, ma a salario invariato. Che cosa avete offerto in cambio, oltre al mantenimento degli occupati? Noi abbiamo pensato ad incentivi che siano fatti in maniera tale da aumentare il numero delle ore, non sulle 38 ore, ma lei tenga conto di una cosa, è un fatto abbastanza tecnico. Un macchinista normalmente da noi lavorava 155 minuti al giorno in cabina, Oggi noi immaginiamo che con questo accordo si arrivi almeno a 4 ore, 4 ore e mezza, 5 ore al giorno in cabina. Evidentemente questo aumento di ore che fanno sul treno diminuisce il numero dei macchinisti che sono necessari, ma riusciamo a fare una produzione più alta. Non creiamo esuberi perché la nostra produzione continua ad aumentare, lei tenga conto che negli ultimi 2 anni noi abbiamo aumentato la nostra produzione del 20%, 650 corse, una cosa di questo genere al giorno in più, ma facciamo in maniera che questo aumento di produttività non ci costi, il costo del nostro lavoro aumenta meno che proporzionalmente rispetto alla produttività e quindi portiamo a casa un aumento secco di questa produttività. Pensi che questo, tra le altre cose, ci ha consentito di assumere 550 persone nell'ultimo anno, un'età media di 22 anni. Quindi questo dimostra anche che l'azienda che è efficiente riesce anche ad assumere. E quindi voi darete appunto a parità di stipendio, aumenta l'orario di lavoro, ma avete introdotto dei meccanismi di premio e riconoscimento del merito? Mi può dire di incentivazione, mi può dire una battuta che cosa? Beh, insomma, per esempio vengono pagate di più le ore oltre le 3 ore di condotta. Oltre le 3 ore di condotta le ore vengono pagate di più e quindi si incentiva le persone a lavorare di più ogni giorno. Poi abbiamo per esempio introdotto un nuovo welfare aziendale, cioè noi capiamo perfettamente che in un momento così di grande difficoltà è necessario che le famiglie di chi lavora per noi siano tutelate, quindi gli asili nido, abbiamo una previdenza integrativa e complementare, abbiamo per esempio il contributo a carrello, se ne è parlato tanto per alcune aziende italiane, noi abbiamo introdotto un contributo a carrello che è di 70 euro al mese, che è il 10% della spesa media di ognuno di noi. Cos'è il contributo carrello? Sono dei voucher per spendere, per fare la spesa? Noi stiamo firmando delle convenzioni con le grandi catene di distribuzione per consentire uno sconto del 10% su tutti i beni che acquisteranno i nostri dipendenti fino a 70 euro al mese. Ecco, quindi anche questo è un fatto estremamente... Mi dica un'ultima cosa, perché lei parlava della produttività come la differenza, giustamente, il rapporto tra ricavi e costi. Voi quanto a ricavi avete le proteste dei pendolari delle ex Ferrovie Nord, appunto Trenord, che segnalano come i prezzi dei biglietti siano aumentati del 20% e siano tra i più cari. Il collegamento da e per Malpensa con 11 euro a tratta è tra i più cari d'Europa, ma lamentano ancora molte disfunzioni, addirittura sulla tratta Mantova-Cremona-Milano c'è lo sciopero del biglietto, cioè uno compra il biglietto ma dice che non ce l'ha, adducendo scuse simili a quelle che date voi quando non dite sui display in che binario arriva il treno o che ritardo ha. E poi sulla Milano-Lecco-Sondrio i 5 treni dell'euro di punta sono passati da 4.400 posti a 3.600 posti di oggi. Cosa pensate di fare sul fronte degli investimenti per i vostri clienti? Allora, guardi, intanto sulla questione delle tariffe, non lo dico io, ma c'è un benchmark internazionale che è ben preciso, noi incassiamo meno della metà di quello che incassano gli altri paesi europei. Noi incassiamo circa 0,11 centesimi per passeggero chilometro, in Francia e in Germania sono almeno 22-23 centesimi per passeggero chilometro. Il collegamento con Malpensa è il meno caro d'Europa. Il rapporto tra distanza e prezzo è il più conveniente d'Europa, 11 euro per fare 50 chilometri, lei che gira il mondo sa perfettamente quanto costa l'Itro Express, tra le altre cose il più veloce anche di tutti, come dimostrato dall'ultima ricerca fatta da SEA e Ambrosetti, presentata qualche giorno fa al forum di Ambrosetti a Cernobbio. Per quanto riguarda tutto il resto, tenga conto che noi abbiamo un ritardo per il ferroviario italiano di 30 anni, stiamo recuperando correndo. I risultati della customer satisfaction in Lombardia continuano a crescere e noi abbiamo lanciato un investimento proprio in autofinanziamento, perché Trenord è una società che remunera il capitale investito ed è in grado di autofinanziarsi sugli investimenti. Abbiamo lanciato un piano di investimenti da qui al 2014 di 536 milioni di euro. Alcuni già sono ordini già che sono andati al settore ferroviario, come per esempio 10 treni alla Alstom la settimana scorsa. E Regione Lombardia negli ultimi 10 anni ha investito 1.200 milioni sui treni Per concludere ci sta dicendo che il servizio migliorerà, che è quello che interessa gli ascoltatori che stanno anche scrivendo al 349 238 6666, prego. il servizio sta migliorando in maniera sensibile. Quando lei ha riferito di alcune linee, non c'è alcun dubbio che su quelle linee dobbiamo fare ancora un lavoro molto allora, utile. Allora, noi saremo qui a verificarlo, glielo dico, grazie al ministro legato di Trenord Italia. La puntata termina qua. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.